Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Pochi giorni fa l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha emanato le nuove linee guida per i titoli di efficienza energetica o certificati bianchi. L'Italia è stata la prima ad adottarli nel 2005 e con qualche modifica diversi paesi europei li hanno adottati in seguito. Si tratta di uno strumento che serve a remunerare chi fa efficienza energetica. Ogni TEP risparmiato, tonnellata equivalente di petrolio, dà diritto a un certificato bianco l'anno per 5 anni, che naturalmente ha un valore economico e può essere scambiato anche su un apposito mercato. La regolazione del meccanismo è stata affidata a suo tempo all'autorità, che l'ha gestito con grande attenzione per evitare, diciamo così, eccessive ricadute sulle bollette degli italiani. Persino troppa attenzione, nel senso che se da un lato il rapporto costi-benefici di questo strumento è stato fin qui molto positivo, dall'altro per molte operazioni di efficienza energetica i certificati bianchi si sono di fatto rivelati insufficienti, non le rendevano appetibili. E difatti mi sembra di poter dire che le nuove linee guida vanno proprio nella direzione di rendere più appetibili operazioni di efficienza energetica che fin qui non lo erano. Non so se l'ospite di stasera sia d'accordo con questa analisi, ma glielo chiediamo subito. Diamo il benvenuto al commissario dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, Alberto Biancardi. Buonasera Biancardi. Buonasera a lei e a voi, grazie. Allora Biancardi, sì, questa è la situazione. Sono assolutamente d'accordo. Anzi direi che non è l'unico intervento che abbiamo operato, ma è quello principale, almeno per quello che riguarda gli operatori. In particolare con il coefficiente che chiamiamo nel nostro gergo TAU, dato la possibilità di far sì che a parità di anni di valenza del certificato bianco, 5 anni, ma ce ne sono anche di 8 e di 10, l'investitore ha la possibilità di avere un beneficio maggiore in termini economici se l'intervento ha avuto una efficacia maggiore in termini di efficienza energetica. Quindi per i nuovi interventi, chi investirà in interventi appunto che fanno del bene al sistema riuscirà ad avere un incentivo maggiore, e direi che anche per gli interventi che sono già in corso, quelli che sono già operativi, per gli anni che mancano ancora di scadenza, no, per ricevere i certificati bianchi stessi, noi provvederemo a valorizzare in misura maggiore gli interventi, quelli che danno un contributo maggiore al risparmio energetico. Qual è il criterio? Il criterio è quello della, come dire, della vita tecnica utile, no, del nuovo impianto che per esempio si installa. Esattamente. Stiamo calcolando quali sono questi coefficienti, ma diciamo che abbiamo già identificato 18 categorie di interventi, ognuno ha già la possibilità di vedere in quale di queste categorie lui ricade col proprio intervento, e proprio questo che lei ha detto, se nella vita utile c'è un'efficienza maggiore, questa efficienza verrà ricalcolata nei 5, negli 8, nei 10 anni di vigenza dell'incentivazione. Quindi diciamo che se prima si applicava una tecnologia che aveva un'aspettativa di vita di 5 anni, si prendeva un tot di certificati bianchi, ma si prendevano gli stessi certificati se si metteva una tecnologia che aveva un'aspettativa di vita di 10 o 20 anni a parità di efficienza ogni anno. Invece adesso chi usa questa tecnologia, che magari ha una vita utile di 10 o 20 anni, si vede riconosciuti certificati bianchi più corposi proporzionalmente alla vita utile. Più o meno è così. No, esattamente. Ok, benissimo. Cambia anche la taglia minima, diciamo, sì, di questi interventi. Infatti gli altri due punti che ci sono sembrati più importanti su cui agire è appunto la semplificazione e la riduzione di taglia, no? Cominciando da questo secondo aspetto, uno degli elementi che avevano ostacolato la diffusione, una maggiore diffusione, perché in realtà i certificati bianchi ce ne sono già tanti in giro, ma per renderlo ancora più incisivo, questo strumento abbiamo ridotto la dimensione minima. Diciamo a secondo delle tecnologie che siamo andati a toccare, questa riduzione, questa soglia alla quale si ha accesso al certificato bianco è scesa a che livello, quindi? Almeno del 20%, in alcuni casi, a secondo di qualche tecnologia, può arrivare fino all'80 e al 90 anche più del 20%. Insomma, quindi anche operazioni abbastanza piccole. Però questi certificati bianchi voi li avete riformati, però attualmente scadono il 31 dicembre. Se il governo quello quale che sia, insomma, non li confermerà, noi perderemo i certificati bianchi, ma è una prospettiva realistica? Ma io direi che si può essere ottimisti sul fatto che i certificati bianchi rimangano, e anche direi in questa forma, sulla governance. Ecco, perché qua c'è un altro problema, infatti c'è l'autorità. Ha ricevuto dal Ministero dell'Ambiente, giusto? La delega. Anche dell'industria. La delega appunto a governare questi certificati bianchi, però questa delega potrebbe essere ripresa e c'è qualche segnale che ciò accadrà? Guardi, dunque, intanto bisogna essere veramente corretti fino in fondo. Noi abbiamo avuto come autorità la delega fin dal primo momento, però c'è da dire che l'ultimo intervento di norme primarie, cioè il recepimento del terzo pacchetto energia cosiddetto 93-11, mette in discussione questa delega. Diciamo che rischia di riportarlo più vicino alle mani della politica. Noi siamo però fiduciosi che ciò non accadrà. Appunto, però su questo onestamente non dipende solo da noi. No, certo. Un augurio, un auspicio che resti nelle mani dell'autorità. Ma perché, insomma, qual è il rischio? Ma perché sono interventi, l'abbiamo detto nella parte iniziale della nostra chiacchierata, che richiedono decisioni di medio e di lungo periodo, richiedono norme chiare anche per consentire finanziamenti, stabilità di norme, quindi con un cambiamento così forte gli investitori rischiano di avere meno fiducia sulla stabilità del sistema. Sì, soprattutto infatti sul lungo periodo, che non è il forte della politica italiana in particolare. Non sono la persona. Mi rendo conto che lei non è in condizione di dire queste cose, ma io per fortuna sì. Grazie Alberto Biancardi. Grazie a voi. È tutto, a domani.